Anzi, angoscia. Sì, nel modo cioè, bello, migliore per aprire. Difficilissimo. E terribile. Il flauto magico, la regina della notte, sì. Che è un'opera apertamente e fortissimamente di ispirazione massonica. Per aprire la seconda stagione, episodio pilota dell'ora del complotto. Questa volta qua, aspetta, c'è anche il suono. È regalatoci dalla regina. Mi fa sempre ridere. E questa volta con Edo Piro Piron. Ciao. 92 92. Così svegliamo subito anche gli che account. L'età non è. No, sì, non è l'età. L'anno di nascita. E col buon vecchio Jopitz che è sempre qui. Porta avanti la tradizione. Esatto, perché prima c'era. C'era il Jack Manz Mandzukic. Mandzukic, grande. Poi tutti gli che faccio li taglierò. Quindi non ascoltate in diretta. Cerchiamo di andare direttamente sulla post-produzione sul sito exalge.com/radio. E benvenuti, bentornati. Per me benvenuti. Per te benvenuti. Per io benvenuto qua, spero di essere benvenuto. Sono tutti benvenuti. Ci sentiremo più o meno una volta al mese. Mm-hmm. Abbiamo deciso di rimanere sganci. Sì, Gio ha provato a proporre di fare. Ma dai, il primo venerdì del mese. No, perché è impossibile. Perché tanto sappiamo che se ci mettiamo il primo venerdì del mese, ogni primo venerdì del mese saremo arenati da qualche parte, sicuro come loro. Quindi una volta al mese. Si sceglierà di mese in mese, bene o male. Perché tanto alla fine l'idea di questo programma qual è? Chiacchierare. Buttarla in cacciara. Quindi non è che cose proprio male. Non penso che nessuno a casa dica: ah, il primo venerdì del mese non c'è l'ora del complotto. Sciogliere l'emozione, così, queste cose qua. Esatto, esatto. Insomma, cioè l'idea è appunto quella di parlare di cose senza prendersi troppo sul serio. Un pochino sul serio. Sì, ovviamente se si affrontano determinate questioni litigheremo tantissimo. Litigheremo tantissimo. Io c'ho un tema che non voglio affrontare con Gio. E spero non lo faremo mai. Qual è? Ti parlo solo di 2020. Ok. Marzo 2020. Odissea nello spazio. Esatto. E sì, cioè diciamo che appunto l'idea è prenderla non troppo alla leggera, con il rispetto che meritano comunque gli argomenti per quanto mi riguarda. Sì, una cosa ci eravamo detti col Manz era non parliamo assolutamente del Covid, ecco, l'abbiamo nominato solo a fine stagione. Ah, perché Manz è così. Ci sta, giusto, ma noi possiamo procedere anche su questa linea, possiamo non decidere, non parleremo mai di Covid. Va bene. E come nella prima stagione tireremo fuori più volte possibile Berlusconi. No, oh, lui godo. Sì, sì, sì, sì. Vabbè, Silvio è il capo. Cioè, io penso che se questo programma dovesse venire comprato da qualcuno, dovrebbe essere il gruppo Mondadori, per quanto mi riguarda. Perché potremmo parlare per ore ed ore del compianto non compiantissimo Silvione. Silvione. Silvione, lui, diciamo, il suo nome. Silvan, anche detto. Numero uno. Quindi l'idea era anche un po' di fare magari una divisione per temi. Io mi sono un po' sbattuto con dei materiali, degli elementi, quindi acqua, fuoco, terra, cose del genere. Ho provato a pensare a vari aneddotiche, curiosità che potrebbero interessare riguardo a ognuna di queste cose, ma possiamo andare anche per misteri famosi piuttosto che complotti famosi, tutto quello che ci dona il morning del post su cui poter complottare piuttosto che esatto. Indagini o qualsiasi altra cosa, ovviamente fatta in maniera spiccia e con approfondimenti relativi, diciamo. Esattamente. Sì, devo dire che appunto il tema del complotto, secondo me, nonostante l'amicizia che ci unisce, sul complotto siamo abbastanza due entità divise, separate, in quanto diciamo andiamo a rappresentare un po' due poli opposti che stanno alla base dell'idea di complotto. Ma è così, facciamo statistica, ci compensiamo. Ma vuoi dire intanto che cos'è il complotto? Vabbè, no, cioè non mi sono non preparato serve. A riguardo. Quindi certo, non, certo, non lo ma saprei, secondo me ce n'è una dire. Risposta. Sì, ma in verità, a parte la produzione dal latino, quindi complotto... Nel non senso... mi sono preparato e sai che arriva dal latino, beh, fanculo. Da, a parte quel significato che è un po' l'ordire contro qualcuno, che può essere, non so, Bruto con Giulio Cesare, per dire, e gli fa il suo complotto per ucciderlo, che è una cosa concreta ed esistente, di cui nessuno sa, di cui spesso c'è un mandante e, uh-huh. E anche gli attuatori non sanno chi è il mandante. Questa cosa l'avevamo un po' accennata nella prima stagione in mezzo ai vari Berlusconi e altre cose. C'è poi anche il lato più mediatico del complotto, un po' più la terra è piatta, uh-huh. L'allunaggio non è mai avvenuto, certo. Che vende un casino, vendono tanto. Certo. E qua si fa tutto, tutte e sì, due. Sì, certo, cioè... perché sono comunque tematiche che non hanno una vera e propria, come dire, dimostrazione pratica, nel senso che tendenzialmente sono tutti eventi legati o al passato o a luoghi in cui non ci sono milioni di persone che lo guardano e assistono a questo evento, quindi è chiaro che si passa al sentito dire, si passa a leggere l'informazione e lì è anche un po' fidarsi di chi ti racconta e viceversa, insomma, non fidarsi invece. E qui forse anche un po' nasce il complotto, secondo me, nell'accezione più moderna. Sì, che è un po' l'accezione negativa di complotto, cioè uno può vederla anche come un detective effettivamente è un complottista, perché per avere quell'intuito, per andare a capire effettivamente cosa è successo in mancanza di prove, deve avere un po' quella curiosità che gli dice ok, intanto c'è una variabile che è sempre abbastanza la più importante, che è un po' il movente, quindi a chi potrebbe giovare. Certo. Questa cosa, raccontare questo al mondo piuttosto che è vero, fare questa è una cosa molto importante, fare questa cosa. Sì, ma infatti, cioè, mentre dicevi spiegami un po' il complotto, l'idea che ho avuto è sempre qualcosa di magari rivolto al potente, cioè che ha un complotto importante è sempre in una direzione di come dire, verso chi ha più potere di te, verso chi mantiene il potere o ha il potere oggi. Sì, insomma, cercare al un momento. Po' di smantellarlo o di andare a rompergli le balle. Esatto, e esatto. Allo stesso tempo tirare acqua al proprio mulino, nel senso fare conferenze sulla terra piatta, ovviamente vai, paghi il biglietto, certo. E tu ti sei impegnato anche relativamente a organizzare un insieme di prove che dimostrino effettivamente che la Terra è piatta. Certo. Perché in verità vai a parlare probabilmente alla pancia delle persone, mm-hmm. più focalizzandoti sul il governo ti dice che, piuttosto che su effettivamente la prova. Cioè vai sicuramente a toccare il fatto che l'Antartide in verità è il confine con un altro mondo ed è pieno di tesori, per cui certo. tu non ci puoi andare, piuttosto che altro tipo di ragionamenti. In generale l'idea che mi arriva un po' è che il complotto è un tentativo di cambiare lo status quo, molto spesso, insomma, un po' andare contro ciò che è legge in qualche modo, è sì, lo status quo della società, delle scoperte scientifiche, delle scoperte di vario tipo. Quindi ecco, è interessante, molto interessante secondo me questo tentativo, attraverso, come dire, mettere in campo posizioni alle volte addirittura opposte per mettere in dubbio appunto ciò che è la base del mondo in cui viviamo tendenzialmente. È una tematica secondo me molto, molto più rilevante alle volte di quello che pensiamo. Sì, facciamo un po' quindi il complottista verso scettico, esatto. o verso terra-terra. Scettico è una parola che comunque secondo me è un po'. Sì. Vabbè, allora posso dire che un po' limitata. Mi piace a me essere definito scettico. Sì. Va bene. Non so se a te piaccia essere definito complottista, però al contempo. Ma da quando è una parola così abusata? No, certo. Sì. Oggi sì, addirittura. Sì, perché fanculo, a quel punto la mando in cacciare e dico: certo, che sono complottista, ma perché tu Ascolta non me. Pensi che se c'è la P2 allora c'è anche la P1? Certo. È giusto. Per forza, e perché questa è propaganda P1 2 e la P1 e questa P3? E la P3? Fino alla P38. Esatto, vabbè, che loro fratelli. No, e comunque l'idea è quella un po' di cercare di rappresentare quegli estremi di cui parlavamo prima. Da una parte appunto Joe, che avrà un'attitudine, come dire, un po' più di ricerca sul discorso proprio dei complotti e delle storie che vogliamo bene o male raccontare. Io cercherò di fare un po' da controaltare e provare a essere quello che fa l'anticomplottista, ecco. Ma sempre appunto... alle volte mi smonterà indubbiamente, alle volte magari gli metterò qualcosa davanti che non riuscirà a ribattere. Vedremo, non lo so. Secondo me ci troveremo molto più d'accordo di quello che si possa pensare. Ma molto probabile, sì. Perché poi nel mezzo sta la virtù, diceva esatto. Francesco Totti. Dicevano i non sit, perché tu hai fatto una buona citazione. Ah, giusto, sit. È vero. Prima allora di mandare magari la prima canzone, cioè il mio pensiero alla base, io in quanto Jedi e che credo nell'ordine della forza delle cose. Nell'equilibrio, grazie. Della forza, c'è quella frase lì che dice We Want Kenobi ad Anakin prima del loro scontro, non finale, ma insomma quello del terzo capitolo, diciamo. Si può spoilerare, viene fatto. Vabbè, se non l'hai visto, sei uno stronzo, quindi va benissimo, spoileriamo. Quello in cui vince Obi-Wan, gli dice I have the high ground, e lui salta lo stesso e lo affetta. E prima di iniziare questo... L'hai spoilerata tua? No, sì, assolutamente. Cioè, ecco, lo scettico, che se non hai visto Star Wars nel 2024 sì, hai paura, hai perso. Degli spoilers. Hai perso. Mi spiace. E gli dice una frase molto bella, secondo me, che gli dice solo i Sith ragionano per assoluto. Cioè, quello che noto tanto all'interno magari del mondo del complotto è che si ragiona molto, molto per assoluti. Hai 100 prove contrarie, ma la tua teoria è una e ha 2 prove, e quindi tu procedi dritto e ragioni appunto per assoluti. A me gli assoluti non piacciono, quindi cercherò sempre di mettere in dubbio gli assoluti in generale. Esatto, viva gli assoluti. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it. A sloppy blow, shotgun opera lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Afterwards don't mean a thing. And I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stomp it out when they bring that chorus in. I bleed it out. digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. I bleed it out. I bleed it out. Allora, questi erano i Linkin Park con I Bleed It Out. Esatto. E invece, Edo, parlaci un attimo del sottofondo. Allora, il sottofondo è, diciamo che io ho una buona passione per le colonne sonore di videogames e magari anime, film, eccetera. Mi piacciono molto e le ho sempre trovato ottime, di ottima compagnia e di ottimo sottofondo. E quindi ho pensato, perché no, magari proporne una per puntata, farla andare e poi raccontare che cos'era. Questa è la colonna sonora di un videogioco indipendente che si chiama Tunic, che è uscito nel 2022, se non sbaglio. È un gioco molto particolare, anche potrebbe essere anche molto legato alla nostra, ai nostri discorsi, perché appunto è una storia di molto simile ai vecchi Zelda, con questo volpino con una spada e uno scudo che deve combattere in isometrica diversi nemici. E c'è questo libro, che è un libro delle istruzioni, che tu trovi pagine durante il gioco, che ha, diciamo, ti spiega un po' come comportarti in diverse occasioni. Magari c'è il buio e ti dice guarda che devi usare la torcia, o diverse cose magari un po' più complesse di questa. E alla fine della fiera, nella parte finale, se tu vai a leggerti tutto il libro, cioè, ti trovi davanti a una porta d'oro a un certo punto gigantesca e non sai cosa fare. E se vai a leggerti tutto il libro, trovi diversi indizi, ma molto complicati, sulle pagine. E se tu riesci a ricostruire un lunghissimo codice di tasti, questa porta si apre e succedono una serie di cose. Quindi è molto, molto interessante, quasi complottista, se vogliamo, in qualche maniera. Ma un sacco di giochi che ho visto anche da te comunque si basano abbastanza sul tradimento, complotto, sì, sì, ordizione. Diciamo che, se vogliamo, troviamo questo tema ovunque. Eh beh, quindi... certo, perché siamo tutti complottisti in esatto. Fondo. Esatto, esattamente. No, e invece perché hai scelto Bleed It Out? Bleed It Out perché ha queste strofe rappate in cui ci sono varie denunce allo status quo sociale globale, dalle guerre alle differenze tra umani sociali, quindi povertà, ricchezza. Certo. Beh, loro molto, sì. Band molto legato a queste tematiche, quindi sia magari in maniera più singolare, parlando appunto magari di disagi interiori, però sempre legati molto all'impatto che ha la società su di te, nei confronti magari della tua depressione, del tuo essere un outsider, del tuo essere numb, del tuo essere... sì, un insomma, po' in difesa luoghi senza... della debolezza, esatto, esatto. Della vulnerabilità e della minoranza. E della non appartenenza ai posti. Esatto. Somewhere I belong, insomma, un po' quello. Va bene, mentre sfumacchiamo qua, tranquilli, e andiamo a colpire il microfono e le sue molle. E, tu hai detto non si parla per assoluti. Io ti dirò che metterò la verità sempre in discussione, perché appunto secondo me il complotto in sé è uno stile di vita, cioè non vedere mai una verità come data, come potrebbe essere i Sith o i complottisti stessi, per come viene abusato il termine, ma è una curiosità infinita che ci spinge a non accettare mai niente per dato. Poi ovviamente abbiamo i piedi per terra, tra virgolette, certo, e anche non tra virgolette, quindi dobbiamo riconoscere che volare non si può, certo. E, però secondo me anche tu da questo punto di vista avevi qualche spunto. Sì, io penso che ne parlavamo un po', diciamo, i giorni scorsi confrontandoci sul tema, e ho pensato al fatto che io non mi sono mai definito una persona allineata con lo status quo, col sistema, ecco, però ho sempre, non dico rifiutato, ma un po' vissuto male le persone che magari mettono in dubbio molto spesso tematiche più oggettive, e per tematiche più oggettive magari parlo più che altro di tematiche scientifiche. Da una parte sono stato io a fare l'esempio di dire certo che si può mettere in dubbio lo status quo, prendi Einstein che ha messo e ha distrutto la teoria gravitazionale di Newton, che sembrava la cosa più sensata e corretta del mondo, e a un certo punto ha capito che forse la gravità non era una linea dritta verso il centro della Terra, ma ha deciso che era dovuta, insomma, all'attrazione di masse enormi, quindi più grande la massa, eccetera eccetera. Quindi è vero che mettere in dubbio le cose può essere uno spunto, un punto di partenza, però alle volte, ecco, magari mettere in dubbio la tondezza della Terra, non dico che poi non è tonda, ma ci siamo capiti, portando avanti magari un paio di teorie scientifiche che potrebbero dimostrare la piattezza della Terra, al contempo ce ne sono migliaia invece che dimostrano che non è piatta, e questa cosa a me turba. Faccio molta fatica ad accettare quando viene messo in dubbio delle teorie scientifiche chiaramente dimostrate, con magari o un paio di teorie scientifiche o anche delle divagazioni non propriamente fondate. Ecco, quello sì, è un po' da pazzi quasi, nel momento in cui lo fai, soprattutto senza veramente avere una completezza della tua stessa teoria, no? L'altro giorno forse accennavo alla falsificazione di Popper. Quello che fanno comunque gli accademici, diciamo il mondo scientifico, la comunità scientifica, è quella di, nel momento in cui puoi portare una teoria, deve comunque rispondere per tutte le evidenze già esistenti delle teorie già accettate, e al massimo completarla. Cioè, quella che fa la gravità di Einstein è completare quella newtoniana e per i casi più complessi che la newtoniana non riusciva a spiegare. Certo. Mentre se tu vuoi creare, per dire, una teoria basata sul fatto che la Terra è piatta e l'universo le gira attorno, ci sono sicuramente dei punti che non riesci a spiegare, che dici dobbiamo ancora indagare. Certo. E da quel lato però, cioè, è completamente fuorviante, ma allo stesso tempo è un lato un po' affascinante del complottista, perché appunto spinge a indagare. E certo che è diabolico perseverare, quindi quando già hai delle certezze e sai che quelle sono, è diabolico cercare di perseverare a smontarle al posto, certo, che indagare in altri sensi. Però quel piccolo stimolo a volte è proprio quello che magari manca invece alla società dei ricercatori, per cui si infossano sempre di più nel dettaglio al posto che magari fare un passo indietro e dire ok, proviamo a cambiare punto di partenza, ovviamente tenendo dei principi e delle basi che sono e non puoi alienare. Continuo a sbattere contro il microfono nel frattempo. Però spesso avere una visione, diciamo, fresca o nuova della realtà permette anche solo per gioco poi magari di scoprire qualcos'altro. Sì, le grandi rivoluzioni scientifiche, ma anche filosofiche, di pensieri, insomma, culturali, comunque partono proprio da questo, quindi è molto vera questa cosa. Devi farlo più quasi per gioco e, certo, e per costruzione che veramente credere che... Certo, io credo che appunto se tu hai un modo per dimostrare e ne sei convinto attraverso formule matematiche che stiano in piedi, cioè che se x uguale a 1, 1 uguale a 1 e non che poi, insomma, ci sia qualcosa di vago, io credo che appunto potrebbe aver senso arrivare con una teoria fatta e finita, e non magari appunto come può essere ormai, adesso siamo fissati col terapeutismo, ma ci sono altre cose, arrivare appunto con una struttura fatta e finita per dimostrare quello in cui credi. Ecco, questo è un po' il punto. Bisognerebbe chiedere a un matematico, che qua ne girano un po', se potrebbe esistere una realtà, e già in verità in parte è su numeri irrazionali o immaginari. Certo. Così. Dici, già, magari già in parte è così. Non, cioè, me ne vado poi, appunto, ci sta. Scompariamo direttamente, si spengono i microfoni. Va bene. E, insomma, in generale, quindi questo è un po' il cercare di, da un lato, quello che potrebbe essere un po', sarà un po' l'idea dell'ora del complotto, è magari Joe ci porta una bella storiella e ci riflettiamo un po' insieme, ci racconta magari un grande complotto o qualcosa di simile e ci riflettiamo un po' insieme. Ecco, quello potrebbe essere una cosa, ma poi nulla è deciso, nulla è vero neanche in questo caso, e quindi ecco, adesso ci ascoltiamo un'altra canzoncina. Super. Adesso ascoltiamo Padania degli After Hours. Thank you. due ciminiere e un campo di neve fradicia. Qui è dove sono nato e qui morirò. Se un sogno si attacca come una colla all'anima, tutto diventa vero, tu invece no. Ma puoi quasi averlo, sai. Puoi quasi averlo, sai. Tu puoi quasi averlo, sai. E non ricordi cos'è che vuoi. Ancora senso battersi contro un demone, quando la dittatura è dentro di te. Lotti, tradisci e uccidi per ciò che meriti, fino a che non ricordi più che cos'è. Se è finito male, fare parte della storia, anche quella più crudele, liberarti dalla fede e cadere finalmente, tanto è furbo più di noi, questo nulla, questo niente. Se un sogno si attacca come una colla all'anima, tutto diventa vero, tu invece no. Ti è venuta questa, hai detto? Ah sì, perché mi stavo accendendo una sigaretta e questa canzone, se ci avete fatto caso all'inizio, si sente questo suono. E niente, mi è venuto in mente, allora ho detto dai, non mettiamo quella che era in scaletta, mettiamo questa, così cambiamo le scalette. E poi dice, se un sogno si attacca come una colla all'anima, tutto diventa vero, tu invece no. Tema della verità. Che è il sogno della padania libera. No, diciamo che Mario Lagnelli non è proprio un leghistone. Anzi, questa canzone parla del suo passato, di dove è nato e di dove morirà. Guardandosi intorno, una pianura con della neve e un po' di una sigaretta accesa. Un po' un ragazzo della via Gluck più sì, moderno. Esatto, dai. Diciamo di sì. Va bene. Diciamo proprio di sì. Allora, è il momento di buttarla in cacciara con il cui presidente Giacomo. Ciao presidente. Vediamo un po', facciamo la prova al microfono. Aspetta, vai. Eccolo qua. Eccolo. Eccoci qua. Sì, buonasera. Buongiorno a voi. Che voce radiofonica. Allora, Gio voleva buttarla un po' in cacciara. Sì, allora, partiamo da dei complotti a noi più cari o dubbi risolti sull'umanità e sulla realtà che potrebbero appassionarci, ma come neanche farci schifo, ci piacciono entrambi, ce li facciamo andare bene entrambi, e quindi facciamo una veloce carrellata e diciamo ognuno quello che... la prima cosa che ti viene in mente su quella storia o quel tema. Andiamo. Sei pronto? Prontissimo. Allora. Ok, vai Gio. Allora io inizio. Le piramidi, vai. Facci... Parla delle piramidi. Parla. La prima cosa, allora, argomento a piacere. L'antico Egitto. Mi viene un complotto, le hanno costruite davvero loro? Perché è difficile pensare che al tempo avessero i mezzi per spostare questi blocchi. Sì, dicono gli schiavi. Esatto, sai quali sono i mezzi? Sì. La schiavitù. Non lo so, non lo so. Queste forme così, non a caso, piramide forma della massoneria, no? Simbolo massonico per eccellenza. Costruttori. Cioè, hai chiamato un ospite... È preparato, eh? Bello croccantino, croccantino. Crunch, crunch. No, crunch. Mi viene in mente questo. Se penso alle piramidi, il dubbio architettonico, no? Forse una delle chiavi di accesso al complottismo più interessanti che ci sono, penso dai geroglifici, soprattutto. No, e a sì, comunque le iscrizioni rupestri, quindi dal primo rapporto uomo materiale, è un rapporto che nella storia ha creato tanti dubbi. Io ho sempre pensato che il tostapane, per esempio, a un certo punto arriva il tostapane, non c'è un'evoluzione storica della, cioè da zero a tostapane, no? Incredibile. Ma secondo me lì qualcuno ha dato dei consigli da... cioè dici che è caduto dal cielo questo tostapane, sì, sì. O perlomeno magari un uomo è stato rapito, portato sul pianeta e ha mangiato un toast clamoroso, toast, e ha detto planet. Ma raga, ma come fate? E gli hanno detto: zio, c'è questo. E lui ha detto: no, vabbè, no, devo tornare subito dai miei amici sulla Terra e spiegargli come scaldare il pane. Sì, in qualche minuto poteva scegliere tra la vita eterna su Plutone e tornare sulla Terra e inventare lui, il toast e pane. Lui come si chiama quello che ha rubato il fuoco agli dei? Prometeo, mi viene a Teseo, non so perché. Sono amici. Come il Prometeo dei tempi moderni, degli anni 50, che ci ha portato i tostapane in tutte le case americane, non solo. Esatto. Fantastico. Fantastico. Invece io credo che se penso alle piramidi, mi viene in mente appunto delle costruzioni belle, antiche e belle. Fatte ti piacciono? Beh, sono fighissime, scusa, sono, ma sono brutte. No, so, però il bello è abbastanza non soggettivo. Non è il Colosseo, però. Non so, in Egitto sono stato a Sharm el Sheikh, viaggi del ventaglio lì, quindi non è che proprio ho visto la barriera corallina, se vuoi, e ho visto i cammelli, però no, le piramidi no, non le ho. Io l'ho viste dall'aereo. Preso. Beh, bello. Cioè, non vedi la prospettiva, secondo me, quella, certo, più affascinante, però comunque le vedi, dici ho visto le piramidi. Cazzo. Però sarebbe bello vederle dal vivo, perché devono essere Ikeope, ma sono mio, ma non poi la canzone, una canzone. Sì, Matrioska, no? Matrioska, sì. E, no, io penso a delle costruzioni molto belle che erano un po' una gara di cazzolunghismo tra dei faraoni mezzi dei, mezzi storpi, in quanto penso che si accoppiassero solo tra familiari e quindi c'erano questi esseri un po' gnic. È quello che siamo tutti albini, in verità. Certo. Soprattutto io. E niente, mi sembrava bella una gara di Ramsete II ha fatto delle piramidi così grandi, io in quanto Ramsete III le farò belle, più grandi ancora. Ma più grandi ancora. Erano delle tombe, cioè non avevano scopo abitativo altro, no, penso fossero proprio celebrative. E se 15.000 anni fa invece fossero delle case e poi l'hanno iniziato a usare come tombe? Ma chi ci viveva? Dei giganti. Ah, non lo certo, so. Certo, cioè, non i famosi giganti. Qualsiasi cosa, minchia, ma tutti i resti dei giganti che hanno trovato, certo, cioè, certo. Se non certo. Hai prove, qualsiasi speculazione. Certo, certo, certo. Ma io penso che le prove, in quanto tombe, ci siano, in quanto abitate da giganti, no. Quindi già diciamo che. Perché allora tengono dei tunnel chiusi al pubblico? Per fare i film di Indiana Jones, che ci entra e deve correre nei tunnel. Bellissimo, mentre cadono. Certo, certo, certo. Con una palla gigante che li insegue, sai, quelle cose. Quelle cose molto belle. Che poi è un po' una via di mezzo, nel senso che anche loro se le cercavano queste cose. Cioè non è che hanno scritto da qualche parte, magari, sì, ok, è una tomba, però è anche un rito di Iside, io sarò immortale. Cioè si sono fatti tutti dei trip allucinanti, sì, sì, certo, per migliaia e migliaia d'anni, e hanno costruito questa religione, stato enorme. Ma non, tra l'altro i tunnel non erano per i costruttori, tipo che potevano uscire, poi almeno. Ah, tra l'altro, a proposito dei costruttori, comunque è stato recentemente dimostrato che servivano molti meno schiavi di quelli che si pensava. E con un paio di tronchi e corde messe bene le tiravi su. Ma ci sono piramidi in giro per il mondo? O... Ci sono anche tantissime altre piramidi, sì, in giro per il mondo. Sono famose, sì, quelle delle... Beh, Las Vegas. A Las Vegas ce n'è una. C'è il Louvre. E... Vabbè, chiaramente intendo come costruzioni antiche. Sì, sì. Ziggurat non sono simili piramidi, no? Sono, allora, sono gradoni, no? Così lisce, perché c'è da dire che noi vediamo un aspetto della piramide, ma una volta erano ricoperte di lastroni d'oro, di pietra sbarluccicante. Ah, ok, ok. Delle specie di lastre di lime, granito, cazzo ne so, per okay, cui sbarluccicavano al sole. Poi sono allineate con i controcazzi, con le stelle, tutto quanto. No, ci sono in Sud America, in India, ci sono tantissimi esempi di costruzioni gigantesche a forma piramidale. E poi appunto, perché a forma di piramide? Stavo proprio dicendo questo. Era una rappresentazione della gerarchia sociale, no? Ah, bravo. Quindi, mi piace. Credo, immagino di ricordare anche. Ed è anche per questo che poi è arrivato. No, no, vogliamo le prove. Cioè, credo, immagino, penso. Qua non esiste. È diventato addirittura un aggettivo che descrive un tipo di ordine sociale o, certo, comunque. Certo. Comunitario, quindi ordine piramidale, gerarchia piramidale, ha un suo, una sua accezione ormai. Penso fosse per quello, quindi... Però anche magari tensione verso il cielo, verso la divinità. Magari era qualcosa di più aulico e meno sfruttativo. Sì, poi penso che ci siano sempre questi due equilibri tra appunto magari un discorso più pragmatico che possa essere la rappresentazione di uno stato sociale e invece... Anche pragmatico a livello costruttivo, perché pensa a farle rari. Con la punta in basso sbattissi. Andiamo ad allargarci. Però pensa che bella società sarebbe con il... la parte più lunga sotto a rappresentare il sotto, diciamo, il, che poi comunque il faraone, la base della società, al contrario, è imbalsamato dentro a due terzi della piramide, tipo, cioè non è che lo ficcavano in cima appeso, cioè vabbè, poverino, oh, Dio, era morto, era morto imbalsamato, tra l'altro anche l'imbalsamazione. Va bene, parliamo invece del tentato omicidio di Trump, del Trampone, del Trump-One. Esatto, questo in è mente. Stato forse l'ultima grande, sì, sì, sì, sì, l'ultimo grande complotto. L'ultimo grande complotto mondiale, teorie, eccetera. In Italia forse invece no, è quello della barca che ha affondata un paio di mesi fa, ma... No, va bene, parliamo di quello, parliamo, non c'è problema. Di quello magari. No, su Trump cosa mi viene in mente? Difficile pensare a dei complotti, secondo me, in quel caso. Un proiettile che sfiora un uomo, e tra l'altro sparato non da un cecchino, non può essere niente di organizzato, perché se sbagli di un centimetro fai fuori il tuo mandante. Ma hai fatto le tue indagini private? Cioè sei sicuro di questi dati? No, beh, non ero lì, non ho visto l'arma con cui hanno sparato, non so neanche se la cosa è successa veramente, potrebbe non essere mai successo nulla. Sì, magari si era messo un petardo sull'orecchio e gli è scoppiato e... Però no, al di là della parte, diciamo, sui complotti, quello che mi viene in mente è stato sicuramente l'episodio che in realtà poi a posteriori ha rimesso Trump in gioco. No, non solo Trump, che era già comunque abbastanza secondo me favorito nei sondaggi rispetto a Biden, ma ha rimesso un attimo in gioco le elezioni americane nella loro totalità, avendo fatto capire ai democratici che Biden non era più in grado di sostenere la un bagarre, proiettile, non poteva sostenere un proiettile anche lui. Poteva sparare anche a lui, perché sarebbe morto di infarto, di paura solo sentendo il botto. Certo. E quindi la scelta di mettere a battagliare la buona Kamala Harris è nata un po' da lì. È nata un po' da lì. E certo. Quindi bisognerà vedere se questo episodio, che sembrava decisivo nella corsa alla Camera Bianca a favore di Trump, si rivelerà invece poi al contrario. Camera ovale. Camera ovale o casa bianca? Camera bianca, ho detto. Però se facessero la casa ovale, la casa ovale, saremmo a cavallo. La casa ovale. Comunque, vabbè, alla corsa presidenziale, per intenderci, al di fuori delle forme e delle costruzioni, vedremo. Questo mi viene in mente pensando a quell'episodio. Io aggiungo soltanto pessima mira. Sì, cioè una volta che sei lì, ti sei preparato, ti sei fatto gli sbatti, vai in galera. Era un ragazzino, no? Era un ragazzino, ma appunto, secondo me... Minchia, proprio bello piazzato tra gli occhi al buon no, a me è impressionato il Donald che prende il proiettile, si rialza in piedi sanguinante. Come Berlusconi, uguale, quando fantastico. Gli avevano tirato il duomo in faccia. Quindi sempre a Berlusconi si torna comunque nella vita. Allora, gli alieni. Gli alieni. Gli alieni sono tra noi. Per forza. Per forza, c'è il tostapane. Il tostapane, esatto. Ah, giusto, è vero. Già dimostrato dal tostapane, quindi... La matematica non sarà mai mio mestiere. E ci dice che la probabilità che essi esistano da qualche parte nel mondo è infinita. Mm-hmm. Poi, contatti diretti non ce ne sono stati, a quanto pare. Beh, ci sono tantissime testimonianze, sì. Hai voglia. Personaggi attendibilissimi, immagino. Sì, tipo Kamala Harris che dice: oh no, mi hanno rapito gli alieni. Esattamente. Ma io... Quanto le vincerebbe le elezioni? Se la rapissero gli alieni, spero la internerebbero, la internassero, la interneranno. Secondo me alieni... L'area 51... No, il fatto che ci siano altri sistemi abitati è molto probabile, immagino, nel senso che ce ne sono, non sappiamo quanti altri sistemi esistano in cui magari ci possa essere un pianeta abitabile, quindi nel senso... Si parla di vita, no? Abbiamo visto fino alla Luna, fino oggi, quindi nel senso... No, non Marte. Si parla di vita, intelligente. Ok, sì. Cioè, che viene a trovarci. Sennò, beh, è troppo facile dire che ci sono i batteri su K5N1 dall'altra parte. No, sì, vita senziente. Vita senziente che comunica con noi. Mm-hmm. Chiaro. Ma gli alieni, secondo me, sono... Abbiamo una chiamata in studio? No. Collegamento. C'è un collegamento? Ok, poi. Basta gli alieni? Ma gli alieni, ma dai, raga, vabbè, cioè, c'è tanta materiale, tanto di quel materiale. Pensi, ma no, fa senso. Sei tu quello che crede nell'area 51. Troppo, mi sembrate troppo assoluti. Cioè, non c'è un minimo di dubbio. Non mi aveva imparso di vedere qualcosa. Assoluti, ho appena detto che è possibile. Abbiamo appena detto che è possibile che ci siano forme di vita, ma non. La cosa che io metto estremamente in dubbio... Non hai mai visto un'ombra di notte che ti dici, cazzo, quello è un alieno? Sì. No. O un oggetto volante non identificato? Sì, boh, sì, ma non è che ho visto una cosa... Cioè, ci sono altre 9 milioni di possibili spiegazioni. Però quella cosa quello è il complotto. Cioè, quella roba che hai visto, ho detto, ok, quello è un UFO, allora... Cos'è? Potrebbe essere la marina militare che c'ha qualche cosa di segreto, che non, perché non si muove non come un aeroplano. Cose, no. Non ci penso proprio. No, io ho visto di notte volare ad altezza, cioè poco alto, un oggetto, fari spenti, quindi l'ho visto perché era vicino, però lì al lago. Sì, volare sopra il lago di Garda. Lì può essere qualsiasi cosa. È un oggetto non identificato, strano che vada in giro a fari spenti, può essere un drone militare, può essere un pazzo che si è costruito un'auto, un volante, qualcosa. Bellissima l'auto volante, silenziosa però. Silenziosissimo, che volava a fari spenti. No, la vera domanda, che è quella che un po' si fanno tutti, è: ma se questi personaggi esistessero e avessero avuto un contatto con la Terra, dove stanno? E anche Dio. Infatti, ma non lo so, magari sono degli esseri come, molto simili a noi. Tu cosa faresti? So, metti che ci sono dei viaggi possibili, puoi fare, andare sul pianeta X. Mm-hmm. Arrivi lì, è un pianeta enorme, tu non hai dei mezzi così eccezionalmente più sviluppati di quelli che trovi sul pianeta dove vai, quindi hai dei mezzi, diciamo, di viaggio interspaziale, intergalattico, fortissimi, ma non resisti ai missili. Una volta che arrivi lì, non è che puoi fare, cioè sei uno come tutti, ok? Quindi un po' come fai? Quel vai film con giro, Will Smith in cui poi saprai delle cose strane, si prendono da raccontare. A cazzotti con l'alieno e l'alieno muore. Potrai dire a Roberto come si costruisce un tostapane, quindi andrai a fare la storia del pianeta su cui sei. Ma oltre a quello, dici che non avrebbe interesse a... Dopo un po' che vai in giro dicendo, io vengo da quel pianeta lì, e la gente che ti manda a quel paese, fanculo, dici, certo. Non lo so, magari c'è anche questa possibilità, magari sono qui, ma... E se fosse invece di più alla Men in Black, tipo ti spara flashano ogni volta che vedi un alieno e quindi non te lo ricordi? Certo, mille volte sono stato sparaflesciato dopo aver visto un alieno. Tutto può essere, su tutto questo siamo d'accordo. Al contempo, se hanno una possibilità di viaggiare milioni di anni luce, forse ti direi che... potrebbero anche venire probabilmente con una pistolina che disintegra la Terra. E no, magari ci vogliono, so, magari ci vogliono bene, però dicono finché eleggete Trump non vi aiutiamo. Certo. E allora non ci palesiamo. Allora non succederà mai. Ci tengono d'occhio. Potrebbero salvarci da Trump. Forse un po' cocciuti, cioè come l'uomo colonialista. Il libero arbitrio. L'uomo colonialista. Magari sterminava. Magari Trump è un alieno. E loro non lo fanno. Loro sono un po' più evoluti, non sterminano, ma cambiano un po'. Decidono dall'interno. Dando. Mandiamo questo pianeta nella nostra direzione, come ci piace a noi. Come facciamo? Sviluppando queste cose qui, tecnologie. È affascinante, devo dire che è una teoria affascinante. Però sono tutti potrebbe, ecco, perché poi alla fine finché si parla di alieni dovremmo trovare qualcuno da portare in studio che ha avuto un incontro, che ha fatto delle regressioni ipnotiche. Quello sarebbe top. Sì. Sfonderemo tutto. Bomba atomica. Una bomba atomica. Però c'è qualcosa di più sulla storia dell'atomica. Ah. Qualcosa di complottista. Cioè il fatto che la guerra fosse già finita quando è stata lanciata la bomba atomica. Certo. Ha deciso di far fuori due città per dimostrare quanto erano potenti. Beh, storicamente i giapponesi non si erano propriamente arresi, nel senso che sembrava un po' l'ultimo baluardo. Certo, potevano invaderlo, ora della sua due città. Certo. Non complotterei neanche su questa cosa. No. Però è uscito il film, no? L'anno scorso, un paio di anni fa. Oppenheimer. Chiama? Oppenheimer. Oppenheimer, bel film secondo me, racconta di, cioè, come il tema interessante legato anche al complotto, che poi complotto appunto non è come un'invenzione, cioè uno sviluppo di una tecnologia che nasce da un qualcosa, poi possa trasferirsi a qualcos'altro. Perché in modo... Poteva essere energia. Si poteva essere tante cose. Certo. Ma così come... O anche l'energia stessa, cioè voi credete veramente a Fukushima si siano dimenticati di mettere dei sistemi di sicurezza per spegnere i reattori? Cioè l'energia atomica comunque è qualcosa di veramente potente e lo sanno tutti dal primo giorno in cui ci hanno provato. E saltano le centrali così. Può essere. Successo. Io non so bene. Cioè non è come il tostapane che dici metto il coltello dentro al tostapane, mi fulmino. No, è una centrale nucleare. Certo. Sì, come Chernobyl, avete visto, no? Che ci sono i... dalla serie, carina. Non l'ho vista, ma presente. Bella. Tre cristiani in camera di controllo e dicono no, teniamolo acceso. No, tanto come è possibile che tutto dipenda da tre cristiani. Sì, comunque sono errori umani. Succedono anche oggi, cioè come dico, la Concordia. Come la diga del Vajont. Che è nave porta persone più grossa del Mediterraneo che va a scogli e dici no, non è possibile. Perché non ha un sistema di mappe integrato che gli vieta? Sono errori umani. Quello della Concordia è Schettino che ha cannato i calcoli perché voleva far la storia della Concordia e che c'era un addetto ai lavori dentro la nave che era amico di Schettino e la madre di questo addetto ai lavori aveva il balcone che dava sul mare e allora lui voleva far salutare la mamma di questa persona dalla nave. La madre ovviamente non era neanche sul balcone, lui comunque si avvicina troppo, prende dentro uno scoglio e fa i calcoli male. Però sono errori umani, come diceva Acco, secondo me. Cioè non c'è su alcune cose, non c'è un sistema più grande dietro, esattamente come la bomba atomica o come appunto una centrale nucleare che salta. Cioè sono errori umani, sono anche errori magari di sistemi, di computerizzati, però sono, secondo me, tutto molto riconducibile all'essere umano e all'umanità in generale, ecco. Comunque pensa anche che fegato questi umani. Cioè da Schettino che dice me ne sbatto e metto a repentaglio, magari era talmente stordito che non sapeva neanche di... Ma non aveva idea. Non lo so. Cioè lo sanno tutti che pensava... lì le acque sono basse e tu stai pilotando una roba gigante. Era un capitano di navi da tantissimi anni con una grande esperienza e quindi pensava di gestirsela. Così come centinaia di scienziati coinvolti in un progetto segreto sapevano tutti benissimo a cosa avrebbe portato, no? Certo. Ma quale può essere, per esempio, prima, o che dici non può essere un errore umano, e quindi qual era, diciamo, il movente dietro? Qualcuno voleva far saltare il Giappone. Il Giappone, il Pacifico, le acque inquinate nel Pacifico, tutta la costa orientale dell'Oriente. Ok. La teoria deboluccia, se posso dire. Però vabbè. Gli equilibri geopolitici, una centrale nucleare che salta come Chernobyl. Chernobyl. Chernobyl. Beh, sì, certo, certo, quello già di più. Il terrore del nucleare. Sono delle bombe a tutti gli effetti. Anche la Russia, quando ha attaccato l'Ucraina e si è avvicinata alla centrale nucleare, si sono cacati tutti sotto un po'. Certo. Perché se salta qualcosa è vicina e tutti si preoccupano. Poi andiamo velocissimi. Fra 10 minuti non esistiamo più. Torri gemelle. Qua diventa botte, cioè freddo. Ah, vorrei approfondire un sacco perché... Infatti punta tozzo. Non ne so abbastanza, ma mi sembra di aver capito che ci fossero già degli avvi, che qualcuno già sapesse dal lato americano di questa cosa che stesse insomma per succedere. Sì, sì, alcuni aerei sono stati intercettati dai jet e non sono stati tirati giù. Pure, cioè ce ne sono di robe. Ma qualcosa sotto o attentato dritto, riuscito, semplice, e America che si arrabbia? Qualcosa sotto, beh, ci può stare, nel senso ha cambiato completamente il mondo quell'episodio, no? Eh sì. E dove erano i dirigenti? Erano dentro le torri gemelle o no? Non c'erano dirigenti? Ma che ne so io. Centro finanziario americano? Io dico attentato. Attentato, cioè sì. Musulmani incazzati, attentato all'America, americani incazzati. Dubbio, ma adesso secondo voi nei piani alti dei grandi grattacieli del mondo mettono in dotazione di sicurezza dei paracaduti? Perché l'immagine storica degli uomini che si lanciano dagli ultimi piani con probabilmente dentro che brucia, quindi... Certo, certo. Però effettivamente dici, cazzo, ma... dei bei paracadutini di fianco agli estintori che ti lanci all'ultimo, ci provi perlomeno, cioè, poi se non sei capace probabilmente però... se fai un attimo un corso, lavori all'ultimo piano del grattacielo più alto del mondo, fai un corso di 2 ore su come aprire un paracadute, caso estremo. Io penso che non si possano manco aprire le finestre nei grattacieli alti, cioè. Tipo sì. Dovresti dopo quell'episodio... dotazione, magari un qualcosa per rompere queste finestre e buttarsi. No, hanno semplicemente... Loro si buttavano però, quindi... Sì, no, hanno deciso di aumentare... Penso per la botta siano scoppiati i vetri, cioè quello è fatto, immagino. Siccome hanno solo deciso di aumentare la sicurezza negli aeroporti, così non ti puoi più portare le canne, le armi in giro dall'America, certo, del sud dell'America. Prendere aerei e schiantarli su torri. Esatto. Beh no, anche le cabine una volta erano aperte. Vedi. Adesso sono chiuse. Dai, vabbè, già che ci siamo, facciamo il classico sull'11 settembre. Tanto tempo. Cioè, tu cosa stavi facendo quando stavo guardando Dragon Ball e mi hanno interrotto la diretta. Anche figli di puttana. È uguale. Io stavo. Secondo me non era mai iniziato. Doveva iniziare Dragon Ball, che era un periodo in cui avevano iniziato a farlo tipo alle. Cioè, il tardo pomeriggio. C'era una roba del genere. E ho questa memoria del fatto di dire. Zio cane, ma io voglio vedere Dragon Ball. Che poi non erano delle puntate filler. No, c'era qualcosa di importante secondo me che stava accadendo. Tu? Io ero al parco a giocare a calcio e mi ricordo non so se la babysitter, la madre, che arrivano dicendo andiamo a casa che è successa una cosa tremenda. Perché? Cioè si stava così bene al parco. Sì. Però belli questi episodi dove la coscienza collettiva, cioè dove tutti si ricordano cosa è successo, no? Non ce ne sono tanti altri. Sì, anche lì secondo me ho iniziato a sviluppare la mia anima sociale, cioè nel senso sta succedendo dall'altra parte del mondo, avrà delle conseguenze questa cosa? Va benissimo, mi succherò delle conseguenze e cercherò di vivere come voglio io con anche quelle conseguenze, ma tanto che cazzo me ne frega. Cioè, nel senso, quelli che stanno cadendo nelle torri gemelle, pace all'anima loro, sono là. Io sono qua e voglio vedere. E voglio vedere Dragon Ball. Cioè, buono. Esatto. Mia madre non capiva. No. Quel giorno. Insensibile, lei, tua madre, sta succedendo qualcosa di colossale. Ho capito. Ma questa cosa in questo momento a me non mi tocca. È vero, è vero. Sì, e lì realizzi quanto effettivamente il tuo piccolo non sia un cazzo rispetto poi a questi eventi. Beh, sì, non ti tocca nell'immediato, però il fatto che tu potessi essere lì a guardare Dragon Ball in quel momento è perché qualcuno, grazie all'America, aveva reso possibile la distribuzione di massa dei televisori nelle famiglie della media alta borghesia. Cioè, quindi niente ti tocca direttamente, ma poi tutto ti tocca. Tutto ti tocca, certo. Certo, ma la TV... non ti tocca neanche direttamente come andrà a finire la saga di Dragon Ball. Ti tocca perché... sei stato affascinato da un fumetto fatto dall'altra parte del mondo, sempre, esatto. qualcuno che è diventato virale anche sì. dove vivi tu, e quindi poi a scuola ti confronti con i tuoi compagni su Goku o Krillin, chi è il migliore. Cioè, quindi è comunque complotto, torri gemelle o non complotto. No, comunque mi tocca molto, cioè nel senso la TV ce l'avevo già in casa, bella lì grazie agli americani, adesso potete morire in un attentato e poi ne parliamo. Cioè, sicuramente ci sono delle conseguenze che vanno a toccare, però, nel senso, che la Terra sia piatta o tonda a me in questo momento... Cazzo ti cambia? Cazzo mi cambia? Niente, perché la giri uguale. Esatto. Covid, vai, COVID-di, bruciapelo, skipiamo, così skipiamo. Dai, bruciapelo, così. Una parola per Covid. Complotto o liscio? No, nessun complotto. Io Covid, una parola... Isterismo di massa, e abbiamo capito quanto la potenza e l'aiuto che possono dare le comunicazioni, i nuovi media, eccetera, sono allo stesso tempo un'arma a doppio taglio, e quindi... Che è un po' come Torri Gemelle, allora. Ah, sì, sì, sono ancora di controllo più. E... Sì, controllo. Beh, il 2020 è estremizzato, cioè 20 anni di tecnologia. Comunque come ormai il media la vince sul fatto, sulla realtà. Che è un po' come anche l'attentato agli Hezbollah con i cercapersone. Certo. Ti do uno strumento utilissimo e te lo faccio esplodere in mano. E da lì mi ricollego i Samsung che sono esplosi qualche anno fa. Che... Attentato o malfunzionamento della batteria? Malfunzionamento della batteria. Va bene, allora Zucchero, non il cantante. Zucchero, c'è cioè il tema dello zucchero bianco, zucchero di canna. Che apparentemente quelli che si trovano al bar nelle bustine sono uguali, cioè cambia solo il colore probabilmente, cioè non hanno si dice che quello di canna faccia meglio, cioè non faccia male quanto quello bianco, cazzata apparentemente. Questa cosa secondo me andrebbe approfondita con ma cose... soprattutto perché ci vendono così tanto zucchero se fa male? Perché ciò che fa male è buono, però ciò che è buono fa male. Torniamo un po' al libero arbitrio. Sì. Quindi anche Dio, che è buono, ci fa male. Parla per te. Basta? Ma in che senso ci vendono così tanto zucchero? No, perché ci sono dei problemi con il diabete, l'obesità, piuttosto che tantissime malattie legate alla quantità di zuccheri che ingeriamo. Da piccoli ci crescono a Kit Kat... Mars, adesso voglio fare una mega pubblicità a tutte quante. Sponsor. Per poi dirci: no, non dovresti esagerare. Un pasticcino ha il contenuto calorico di tutto il giorno. Quindi sì. Non dovresti. Però te lo dicono fin da bambino. Che non fanno bene. No, te li danno, esci da scuola. Te li danno alle 10:30 in pausa intervallo. Quando esci da scuola prima di mangiare, la merenda a dopo. A noi ragazzi degli anni 90, figli di chi per la prima volta, forse. Aveva disponibilità una dispensa piena di barrette di marche varie, di cui non era probabilmente neanche troppo cosciente, cioè non c'era la coscienza alimentare come c'è oggi 30 anni dopo. Non penso che i genitori di oggi, chiaramente non si può generalizzare, però con una certa coscienza alimentare vadano a prendere il figlio a scuola con i panini alla Nutella pronti e fatti tutti i giorni, cosa che con noi facevano. Guarda come siamo cresciuti bene. Guardami. Infatti, senza denti. Senza denti. Evviva i dolci. Evviva i dolci. Bene, tante cose di cui non parleremo mai. Ma questo cos'era? Giusto una carrellata. Questa era una carrellata filler perché non sapevamo cioè, come format continuare. Cioè, a fine episodio carrellatona. Sì, solo stavolta, poi ci vedremo. Batisphere di Smog. Out of here. 7. I wanted to live in a bathysphere. A fare più schifo possibile e forse ci siamo anche riusciti. Sì, schifo sempre assolutamente, e sappiate che non miglioreremo mai. Cioè tutti i touch del microfono col cavo, le interruzioni, i balbetti, le scorreggiate, le tracce che parlano sulla voce, Giacomo che prova a parlare al microfono ma ancora non è aperto, cose del genere ci saranno sempre, solo live, certo. Perché poi ci sbatteremo tipo in post produzione per provare a eliminare tutti i tagli. Ti sbatterai, perché sai che tutto sai tu che farai. Beh, niente, siamo arrivati in chiusura. C'era un chiusura ultimo... in apertura. Chiusura in apertura, perché adesso dobbiamo pulire Exalge. E c'era un'ultima cosa che faremo anche nelle prossime puntate, faremo anche un piccolo momento di rassegna stampa in cui andremo un po' durante la settimana a raccogliere notizie. Durante le settimane a raccogliere notizie, morning del post del buon Francesco Costa ci aiuterà in questo. E secondo basta, te riceveremo più cause o soldi perché facciamo marchette? Io penso che nessuno dei due. Che pezzo. Sai che io sono molto ottimista. Sei molto scettico. Anche molto scettico, sì. Quindi abbiamo detto momento rassegna, Potremmo anche ripetere il format del momento cacciara, tanto Jack sarà sempre qua, esatto, a fare una via di mezzo tra i vari pensieri. Sì, ma ci sono anche degli altri ospiti che interverranno nei prossimi episodi, mi è stato detto. Persone, sì, interessanti, anche qualcuno che ha avuto contatti diretti con gli alieni. Cazzo, spettacolo. Quindi, oltre a me, aspettatevi personaggi, personaggini, come si dice. Esseri verdi che entreranno da quella porta, certo. Bellissimo. E... se mi portate un alieno, passo dal lato di Giove, lo dico. E io da quello di Edo, per non smentirmi. Ovviamente, certo, basta il contrario. Fino e... a... bon, che dire, ce la buttiamo con... sì, con l'ultima traccia. Esatto, un pezzo dei New Dead, che sono questa band di quest'anno, dell'anno scorso. Insomma, sono molto nuovi e sono molto fichi, devo dire. E il pezzo si chiama Angel. E grazie. Ci sentiamo tra un mesetto, penso, in grandi linee. Comunque a novembre. La città si accende in un istante.